Il ricordo di Giosia è come una mistura di incenso preparata con l'arte del profumiere. È dolce in ogni bocca come il miele. È come musica in un convito con vino. Ha voluto la riforma del popolo, che era giusta. Ha distrutto gli abomini contrari alla legge. Ha avuto il cuore retto con il Signore quando imperversava l'impietà, ha favorito la pietà. Ad eccezione di Davide, Ezechia e Giosia, tutti sono stati perversi. Avendo abbandonato la legge dell'Altissimo, i re di Giuda hanno avuto la loro fine. Hanno consegnato il loro potere agli altri, la loro gloria ad una nazione straniera, che ha incendiato la città eletta del Tempio e ha reso deserte le sue strade, secondo la profezia fatta da Geremia. L'hanno infatti amareggiato, lui, profeta santificato nell'utero, per sradicare, distruggere e perdere, ma anche per costruire e piantare. Ezechiele ebbe la visione della gloria portata sul carro dai cherubini. Dio si è ricordato dei nemici, mandando la bufera, ma ha salvato quelli che vanno per vie diritte. Possano le ossa dei 12 profeti germogliare dalla loro tomba, perché hanno consolato Giacobbe, l'hanno riscattato con la loro confidente speranza. Come possiamo onorare Zorobabele, che è come un sigillo sulla mano destra? Era con lui Giosuè, figlio di Josedec. Nei loro giorni hanno costruito la casa, hanno elevato un tempio sacro al Signore, destinato ad una gloria senza fine. Molto grande è il ricordo di Neemia, che ha ricostruito le nostre mura cadute, vi ha posto le porte ed i catenacci, ha fatto risorgere le nostre case. Nessuno fu creato sulla terra uguale ad Enoch, perciò fu fatto ascendere dalla terra. Né è nato un uomo come Giuseppe, guida dei fratelli e sostegno del popolo, le cui ossa sono state onorate. Sem e Set hanno avuto molta gloria tra gli uomini, ma più di ogni vivente spicca nella creazione Adamo.